ない。 Sé que hubiendo adesso insieme il mondo fuori sembrerà che piano piano il brutto delle cose si fa piccolo lontano e non ci avrà. Saranno belli da ascoltare, respirare, accorgersi che ti addormenterai, veloce più delle gocce di rabbia, amore che ti colano. Sei brace spegnendo scoppierai. Pensa alle tue cose preferite, a tutto quello che vuoi diventare. Per farlo devi anche riposare. C'è un mondo marcio a cui disobbedire.